get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e ben ritrovate. Quella di oggi sarà la nostra 323esima trasmissione e come prima puntata di questo nuovo anno abbiamo pensato di condividere con voi il piacere dell'ascolto dello spettacolo teatrale dal titolo Il Corbo Lesbico, libero semiserio adattamento dell'omonimo romanzo di Monique Wittig, di e con Graziella Savastano e Laura Scarmoncin, prodotto da La Porta Terra di Donne, che è stato organizzato dalla staff Kesbilè lo scorso 18 dicembre. Lo spettacolo parla di 8 donne in un gioco di sensi attraverso le pagine di uno dei libri che hanno rivoluzionato la letteratura erotica. Quindi buon ascolto. Grazie, grazie. So che sono mesi che attendete questo evento, ovvero il mio intervento. E vorrei omaggiare l'Università di Tampa per avermi concesso di obbligare i miei importantissimi impegni di docenza e ricerca per venire fin qui a indottrinare una plebe di profani e profane su uno dei testi più rilevanti nel panorama teorico letterario dell'ultimo secolo. Il libro di cui vi parlerò oggi, Il corpo lesbico di Monique Wittig, non è di facile lettura e comprensione. Infatti non dubito che se alcuni di voi abbiano mai avuto la sottigliezza intellettuale di sfogliarlo, non ne abbiano affatto compreso il portato volgare. E io sono qui oggi per colmare questa vostra volgare ignoranza. Pubblicato nel 1973 in Francia e subito tradotto in moltissime lingue, Il corpo lesbico diverrà testo focale del femminismo lesbo radicale che in quegli anni andava agitando le due sponde dell'Atlantico, preannunciando una rivoluzione sessuale che non era meramente pragmatica, ma che dal sociale si estendeva al simbolico e culturale per rimodellizzare l'intera soggettività femminile, denunciando nella sua assunzione in quei paradigmi sessisti patriarcali all'epoca. Brava, sì. Intravedo nei vostri occhi un barlume di comprensione, ma non ne sono per niente sicura. Vabbè, andiamo avanti. Servizio domande, le fate alla fine, grazie. Ed è proprio in questa denuncia, ed è proprio in questa sottrazione ai discorsi maschili egemoni che il genio artistico di Monique Wittig va collocato. Teorica, poetessa, romanziera, Wittig sputerà, per citare un'altra famosa femminista di cui voi sicuramente ignorate l'esistenza, sputerà sull'intera cultura fallo-logocentrica per decostruire quella che, in un suo famoso saggio del 1971, intitolato The Strain Minor, chiamerà l'ideologia eterosessuale, e lo farà con un linguaggio destrutturante, decanonicizzante, ma al contempo, anche quando squisitamente letterario, come nel corpo lesbico, inventivo e risoggettivizzante. Wittig dunque agisce in due direzioni, una teorica e politica e l'altra poetica e letteraria, simbiotizzando le due dimensioni in una instancabile opera di femminismo culturale. Intravedo nei vostri occhi un barlume di comprensione, ma non ne sono per niente sicura. Andiamo avanti. Ma, ed è la domanda su cui vorrei voi ora concentraste le vostre menti mediocre. Qual è il portato di fondo del corpo lesbico? Cosa fa di questo testo un testo che mi ha spinta a prendere un aereo da Tampa, Stati Uniti, e venire fin qui a ascoltare un prezioso fiato intellettuale di fronte a un volgo obnubilato? esatto. Il corpo lesbico sussume l'intera ideologia wittigiana offrendo una prassi letteraria che è puro manifesto politico e puro strumento erotico, materializzando così ciò che il femminismo in quegli anni andava dicendo. Che la sessualità è il luogo dell'oppressione ma anche della liberazione delle donne. Nel corpo lesbico, infatti, l'ideologia eterosessuale, i suoi linguaggi, i suoi codici, sono scalzati, aboliti, ammutoliti. Colei che narra è una lesbica. E badate bene per Monique Wittig, come scriverà nel suo famoso saggio del 1971 intitolato The Straight Mind, non è una donna, in quanto essa si sottrae al patto socio-economico-culturale dell'eterosessualità obbligatoria che divide il mondo in due sessi, uno maschile e l'altro femminile, per sottomettere il secondo al primo. In quanto soggetto eccedente, la lesbica, rispetto a questo patto schiavistico, la lesbica può esadire il corpo femminile desiderante fuori dal dominio eteropatriarcale che riduce la donna a mero conio del proprio consumo. In quanto dal suo sguardo eccentrico, la lesbica può esadire, ricostruire un soggetto femminile liberato e autodeterminato attraverso un erotismo infine, affrancato ed esplodente. Un travedo, un emozionante, un barlume di comprensione, ma non ne sono per niente sicura. Andiamo avanti. Ma se questo è il sostrato politico del corpo lesbico, l'elemento stilistico è altrettanto fondamentale all'opera di liberazione wittigiana. Qui siamo di fronte a una narrazione priva di trama, retoricamente tortuosa, linguisticamente spaesante dal contenuto che sfiora l'irragionevole. Wittig racconta il corpo femminile soffermandosi sugli intarsi più minuziosi della sua anatomia. Tendini, budella, ossa sono erotizzati, scompaginando e così denunciando i limiti del vedere e del sentire pornografici maschili. Wittig, ed è questo il solo percorso, ci dice Wittig, il solo percorso letterario e dunque mentale che si può compiere per liberare il corpo della donna dai millenari discorsi maschili che lo hanno di volta in volta costruito come isterico, pericoloso, deviante, sporco, frigido e invisibile. Wittig ci obbliga a disalfabetizzarci, a degrammaticizzarci, a divenire balbuzienti lettori e lettrici di un corpo che preme per affermarsi in una sconosciutezza di significante linguaggio e di significato e contenuto, per divenire un io soggetto finalmente liberato e autodeterminato. Nel corpo lesbico Wittig usa il linguaggio come un'arma di distruzione culturale e simbolica. Nel corpo lesbico la materia bruta delle parole esplode, ci abbaglia, ci disgusta talvolta perché può e deve distrarci dal monologo del fallo e aprirci a un dire, a un sentire, a un bramare sconosciuti e rivoluzionari. Intravedo nei vostri occhi un barlume di comprensione, ma non ne sono per niente sicura. Ci siamo. Andiamo avanti. Wittig ha scritto un libro che ha rivoluzionato la letteratura erotica, ma non solo. Il corpo lesbico ha liberato milioni di donne lesbiche e non dal fallo logocentrismo imperante e ha restituito la sessualità a un soggetto che ne era stato deprivato. Attraverso il corpo lesbico il soggetto donna è finalmente autonomo, indipendente, privo di sovrastrutture precostruite e dotato di un nuovo sentire, di un nuovo sperire, di un nuovo bravare. Questo era in noce l'obiettivo della rivoluzione lesbo-femminista di cui Wittig si fa portavoce. Un rivolgimento che se ne dica, per molte di noi non è ancora finito. Ci sono domande? No? Bene, vuol dire che avete capito tutto? Probabilmente niente, ma non fa differenza, mi pagano lo stesso. Grazie, grazie. lezione di turno in sala macchine ti senti un'altra. Ma cosa un'altra? Ma io voglio sentirmi me stessa. O meglio, sentirmi. Anzi, se proprio devo dirmela proprio tutta, sentirmela. Sì, proprio lei. Perché dopo 40 anni fa, perché ci si fa fatica a sentire. Ma non parlo dell'inquinamento acustico, cosa avete capito? Parlo di quel sentire là, quello dei sensi, no? Quello delle emozioni, delle sensazioni. Dai che ci capiamo, no? Cioè, voglio dire, la rabbia, la tristezza, la noia, hai voglia che la continuo a sentire. E la mucchia anche. Anche la mulichina d'allegria ogni tanto mi chiama anche a me. Ma è possibile che laggiù non si sente più niente? E allora? Oh! Off proprio! Ma senza long! Oh, e basta! Ho capito che non è una macchina! Ma cosa me la porta a fare in giro da passerina spenta? Oh, perché bene o male, dico, nelle altre parti del corpo, anche fino alla tomba, continuano a funzionare. Cuore, polmoni, fegato, stomaco, reni. Bene o male il loro salario se lo guadagnano, no? Ma te cosa fai lì? Ma ti fai lo sbaffo, parassita della società! No, perché poi noi in fabbrica già le senti certe parole, no? Si sente parlare di ridimensionamento, rimansionamento, mobilità! Cosa facciamo? La sera ti tolgo, ti metto sul comodino come una dentiera! Ma là! Cassa integrazione con reintegro! Allora vogliamo dire una puta, esubero e basta! Ma te pensi cosa tocca sentire dopo 30 anni di sindacato? Non! Dico 30 anni a combattere per i nostri diritti, ma senti sta robe! Poi l'ultima che ho sentito, che me l'ha detta le amiche mie, oh Gina, sta calmina! Sono la Gina io, no? Gina, sta calmina! Sarà la menopausa! Oh, la menopausa! Abbiamo combattuto 30 anni i sindacati per avere più pausa per fare la sigaretta! Ma menopausa! Mi fa andare fuori di testa! Sempre le amiche mie, no? Mi fanno, Gina, ti devi aggiornare, ti devi andare un po' su internet a vedere, ci sono un sacco di bei produttini, no? Aggiornati! Cosa c'è su internet? Ma te, ci sono delle lozioni. Te, prova, no? Prendi quella, per esempio. C'è una, Libidin Libidon. Ha detto, il nome è tutto un programma, non ho capito se è per la Libidin o se per Libidon. E io l'ho presa, no? Oh, perché l'ho comprata, ha detto, però te devi leggere bene le istruzioni, eh? Leggile ben benino le istruzioni. E dopo sfrizioni un po' con la lozione. Vedi che fa? Scusa. Perché, pazza esacrabile mia, molto cara, ti sei fatta di pietra. Mentre io ti amo così tenermente. Il sangue non scorre nelle tue vene, l'aria non passa nei tuoi polmoni, la bile, la linfa, il midollo, le ossa, i circuiti nervosi, tutto è fermo. La tua vulva dolcissima da tenere nelle mani non batte più, le tue linfe sono rigide, la tua clitoride è un nocciolo duro, le pareti della tua vagina sono congiunte e sigillate. No! Oh, che istruzioni sono? Sembrava una seduta psicanalitica! Ma lascia stare! Libidin, libidon, la lozione! Lascia stare, io sono una tipa antica, sono una tradizionalista! Non mi interessa a me da questi prodotti di internet. Io quando devo risvegliarmi lo canto. E io canto, ho scritto anche una canzone a proposito. chiama With or Without You. Vuol dire con e senza di te. E io gliel'ho dedicata. E va là, e allora adesso mi canto e fa sfasciare la tristezza. Adesso mi tocca girare il collo. E fate ben bene lo stesso. Delle nostre carni, schiavizzate, silenziate nel nostro sesso dal potere del pene, e questa pena del pene è la nostra pena millenaria. Ma oggi, compagne, il sol dell'avvolvire risplende dinanzi a noi e illumina le nostre grandi labbra. Una clitoride si aggira per il mondo ed è la clitoride della vulva, della rivulvazione lesbo-femminista. Compagne, da questo pulpito che palpita, con la mia vulva possente io vi tintillo e vi incito a rivendicare il diritto di riappropriarvi dei vostri corpi. Apriamo dunque le vulve alla rivulvazione lesbica. Ridate con me, compagni, rivulvazione! Come ci insegna la nostra dea e maestra Monique Wittig, noi dobbiamo ribulbizzare noi stesse, e da noi stesse ribulbizzate, ribulbizzare il mondo per rifondarlo sulla ribulbazione lesbo-femminista che farà deflagrare il patriarcato e marcire il pene nella sua tomba spermatica. Sì, compagne, io oggi vi dico, è giunto il tempo della verità della vulva. Morte al pene patriarcato, potere alla vulva, il fallo cadrà in fallo quando la vulva dominerà sul mondo. Basta col fallo, farlo col fallo è il nostro fallo. Basta col pene, noi qui oggi denunciamo che pene è il pene e rivendichiamo il potere rivulvazionario della vita tra vulve, nelle vulve, con le vulve, via dai consumer da vulve! Compagne, compagne, quello a cui ci chiama oggi la rivulvazione lesbo-femminista è la distruzione del cazzo. No, compagna, non una distruzione fatta alla cazzo, del cazzo contenendo la sua esplicazione. Sì, la distruzione del cazzo. E se io oggi uso questa parola che voi a diritto volete per sempre interdetta, sarà per farlo per l'ultima volta. Elevando le vulve ad dee delle nostre vite, noi fonderemo un mondo vulva lesbo femminista senza cazzo. Noi fonderemo la nazione delle vulve, dove le vulve avranno menti e occhi e braccia per riscrivere i valori dell'universo. Ma state attente, compagne. La via della rivulvazione lesbo femminista è irta di penirti. Ma noi combatteremo a grandi labbra spiegate i tuoi appuntiti. Con le nostre vulve possenti noi fonderemo un mondo di donne. È un mondo di donne, è un mondo di vulve. Non più un sol pene ci servirà per godere. Abbasso il cazzo e in alto le vulve. Rivulvazione! Se qualche dunque vuole entrare ora, no, perché io savo che qua basta essere una donna e ti tratta bene. E a me non mi tratta bene mai da nessuna parte. Sono tanto contenta di aver trovato posto. Così mi sa bene, parlo come che so. Ho fatto solo un corso di inglese all'Infat e invece il corso di italiano non l'ho mai fatto. E ora parlo così, di casa insomma. Non sono sai contenta che sei tante qua perché io devo risolvere un problema, magari mi aiuta. Praticamente no, la Vodafone. Volevo mese o un anno che qui su e c'è. E allora, già che 70 e qua, magari è una che viene italianamente domani, dice aspetta che faccio una lavoretta, perché mi sono mamma di Trieste. Ecco. Mule, non si offenda, Sei tutto bene. All'ultima roba che volevo dire, tu mi imparare a suonare la chitarra, no? Perché non avevo la chitarra, avevo solo il stendin a casa. Avevo la sua cavaglia stina, con la sua sei, sei, così come mi ricordo la chitarra. Con la sua sei, ho imparato agli accordi, con la chitarra sul stendin. Adesso che questa chitarra non lo resiste. E anche volevo dire che il stendin, sei come il primo amore, non si scorda mai. No. Laura. Sono campi, questa non è cassetta delle lettere. Dicevo, sono 4 anni che ormai lei è in terapia da me e io credo che siamo giunti all'indipendente punto di svolta. D'accordo? Sì, no, mi lascia andare avanti perché qui la spiego sono io. Lei dice di essere lesbica. Lei, insomma, crede di essere lesbica. Sì, no, mi lascia andare avanti perché qui la spiego sono io. Lei crede di desiderare altre donne. Lei crede che il suo corpo sappia godere, insomma, con il corpo di un'altra donna. E infatti l'ultima volta mi porta questo libro di questa tale Monique Wittig che mi dice di avere chiaro tutto di sé, che questo era il nocciolo del suo malessere esistenziale e di sentirsi finalmente liberata. Giusto? Sì, no, mi lascio andare avanti perché qui l'esterno sono io. Laura, io che ho molta cura di lei. A proposito, 2500, benissimo. No, molti pazienti se ne dimenticano, se non mi parla. Io dicevo, io che ho molta cura di lei, le dico che no. No. Laura, in questi 4 anni, con il mio costoso, invadente, soffocante, giudicante aiuto, io l'ho vista crescere, io l'ho vista maturare, io l'ho vista sbocciare e definire finalmente un io ego sintonico. Francamente non capisco di questo processo emancipativo come lei ora se ne esca con un'idea così assurda come l'idea di volesse cominciare di essere lesbionica. Laura, io glielo dico in tutta onestà perché a lei ci tengo, a proposito per il dialogo che mi sono dicevo, a lei ci tengo in tutta onestà e le dico che è proprio questa sua ostinazione alla perversione sessuale che blocca il passo finale della sua transizione all'età adulta, che la tiene entrata a una fase nevrotica, trigordea, che già lo capisce Laura, lei lo capisce, non abbia paura di capire, non abbia paura di scavare a fondo dentro di sé. La sua paura degli uomini, il suo rifiuto del bene, sì, no, mi lascio andare avanti perché qui l'esperta sono io e la diagnosi non può che essere di questa. Lei è omosessuocentrica, proprio così, omosessuocentrica. Ed è questo che la blocca, che la nevrotizza, che la fa soffrire. Laura, lei crede che assecondando quella che lei chiama la sua vera natura si libererà dalla nevrosi, ma io le dico che no. Laura, il sesso lesbetico non è naturale. Laura, il sesso lesbionico nasce da un rapporto risolto con la madre, secondo il complesso di piccola, deve aver avuto qualche problema con suo padre da piccola, che so, si è andato a sbattere sui pattini, questo è tutto da vedere. A proposito, 4.000 euro benissimo. Ah, lei dice che no. E io le dico che sì, con anni di esperienza di psichiatrizzazione del desiderio inverso, perverso, traverso, attraverso le strisce mi faccio vestire la malessica, non capisco che ci sono perché questo è quello che le è successo, Laura. Laura, ora mi ascolti bene, mi ascolti molto bene perché non potrò farle credere bene. Questa cosa del corpo lesbico non l'ha liberata, l'ha portata sull'orlo del precipizio. E io mi sento in assoluto dovere di intervenire per salvarla, capisce? Per evitare la deflagrazione ego-distonica di questa perversione erotico-affettiva che non potrà che distruggerla mentalmente. Laura, lei è sull'orlo del baratro! Dunque, data la gravità della situazione, ho deciso che è il caso di passare a una terapia farmacologica. E le ho prescritto questo farmaco al profilo. Si chiama Ebro. La prima scatola era mia. Lei me lo prende 3 volte al giorno prima dei pasti, come effetti indesiderati, moltissimi in maniera puntante, vediamo. Totale morte del desiderio sessuale. Obnubilamento critico intellettuale, calo della partecipazione politica e sociale, come vede nulla di grave, anzi Laura questa pillola la rimetterà al mondo così come il mondo la vuole. Laura si fidi, sì Laura, con la mia riconosciuta professionalità, a proposito 4.000 euro, benissimo, e con l'aiuto dell'etero Pir io la riporterò sulla erezionata via dell'unica sessualità autentica soddisfazione, la sessualità eteropatriarcale. Vedrà tempo 2-3 settimane, a seconda del suo peso corporeo, il pene le piacerà, il patriarcato le andrà a pennello e l'eterosessivo le sembrerà meglio di una punk. Sì, Laura, sì! Laura, il corpo lesbico è l'invenzione di una mente malata di cui lei non deve ammalarsi. Laura, il sesso lesbico non è il suo desiderio. Laura! Laura! Laura! Il sesso lesbico, il corpo lesbico, non esiste. Oh, bene, vedo che il tempo è scaduto, però già è finito. Ci vediamo martedì. Avanti la prossima! Glass and these all get to home. Risveglia. slava, libido. Mia squisitissima. A badata. Mi metto a mangiare. La mia lingua umetta. L'elice. Tu sai dove è l'elice? Tu se sai dove è l'elice, tu risolvi il problema punto G. Ma tu non sai dove è l'elice. Non è parola comunque. Il tuo orecchio scivolando tutto intorno delicatamente. La mia lingua si introduce nel padiglione. Non più Expo, non c'è più un padiglione Expo, non parliamo di tutte queste cose, carne, padiglione che sa di qualcosa, padiglione di orecchio, noi visita, padiglione di orecchio. Quando c'è il qua, tocca l'antenice, quindi i denti c'è nel logo, cominciano a frantumare. La mia lingua si introduce nel condotto del tuo orecchio, punto, punto! Sputa! Sputa anche, devi sputare un po', no? Ti riempio di sanità. Una volta assorbita la parte esterna del tuo orecchio, buco il timpano, trovo il martello, bello! Martello, no bello, tu immagina, chiudo con martello anche, mi dice, aia, chiudo il tuo orecchio, che male, ma dove? Aia, ma che cosa terribile! No, bello, tondo, che rotolo, bello, ai miei denti lo macino, non trovo l'incudine, quindi tante cose dentro l'orecchio, tu dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove sai? Dove membrana rotolata di volo, faccio scoppiare i canali circolari. Non mi curo del mastoide. No, non pensate, perdete tempo con mastoide. questo è proprio scritto, questa regola, non mi curo del mastoide. Perché tu te pensa, non mentre sono lì, fa la roba, tu pensa mastoide. Non mi curo del mastoide, questa prima regola. Sfondo fino a cellare, guardo l'interno della tua guancia, ti guardo dentro. Mi perdo, sono smarrita. Sono avvelenata da te che posso mi posso dire? Mi rattrapisco, divento piccolissima. Sono una mosca adesso. Mi impedisco il funzionamento della tua lingua. Provi in vano a sputarmi fuori. Vorresti liberarti per presto di me? Soffochi. Io ti sono prigioniera. Sono incollata al tuo palato rosa e viscoso. Poggio le mie ventose contro la tua morbida ugola. E così queste sono tutte campanelle di Natale, no? Campanelle che suonano, che felicità, che bello che anche voi sentite tanto Natale come noi, mi sono molto. Allora, questa è mia tipica seduta. Noi mangia insieme con pazienza, noi legge e dopo finiamo con, come dire, cosa è successo? Questo diciamo, WhatsApp, perché pazienza internazionale, qui da me viene pazienza internazionale, non viene un altro gol. Allora, noi gamba, non posso ridere. Ma che sono la loro? Adesso cantate insieme, perché questa è riconoscere. Così anche guarda le cose grandi, fai together, I feel for a I'm sorry. Oh my God, do I try? I try all the time. In this institution, and I pray. Oh my God, do I pray? Oh, Farmacologici rimedi, non servono dottori della mente che la chiamino perversa e la raddrizzino, non serve nulla al di fuori del desiderio che attraversa il mio corpo. E sì, cioè, ma tu, feroce, piena di gioia, di occhi luminosi, mi mantieni contro di te. Premi la mia schiena con le tue larghe mani. La rassicuri. Appoggi la tua vulva contro la mia vulva. Mi metto a pulsare nelle mie palpebre, a pulsare nel mio cervello, a pulsare nel mio torace, a pulsare nel mio ventre. A pulsare nella mia clitoride, mentre tu parli, sempre più veloce, stringendomi, stringendoti, stringendoci con una forza meravigliosa. La sabbia ci circonda la vita. un certo momento la tua pelle si fende dalla gola al pube, la mia a sua volta scoppia dall'alto al basso. Io ti spando in terra. Mi legittimo il desiderio. Lo lascio scorrere sopra e sotto la superficie della pelle. Insinuarsi, inondarmi. E sorrido, e rido. Non servono slogan, piazze, assemblee. Non servono ideologie altisonanti. Non serve nulla al di fuori del desiderio che attraversa il mio corpo. Contrazione più grande ti viene. E mi viene allo stesso tempo. Ti amo, mia morente. La tua testa emersa mi era più labile che uccidiare. La sabbia tocca le tue guance. La mia bocca si riempie. Mi legittimo il desiderio. Lo lascio scorrere sopra e sotto la superficie della pelle, insinuarsi, inondarmi, e sorrido, e rido. Non servono libri di filosofia e vocabolari, non servono illuminanti teorie e illuminati teorizzatori, non serve nulla al di fuori del desiderio che attraversa il mio corpo. No, aspetta un attimo, cos'è questo erotismo telecomandato? No, non mi va bene, certo, ma voglio dire, ma sono quella di prima, cioè sono quella col pigiama, le cose di piedi, naso, puzza, cioè ma basta una parrucca, cioè, e un vestito lungo per fare sesso. Siamo veramente così manipolate? Artificiali, artificiose. Scopare, scopare, bombardamento multimediale, erotizzazione del banale. No, io non ci sto. Io voglio la true life. Io voglio la verità. Basta con la sessomania. Basta con la sessuofobia. Basta con la sessomania. Basta con la sessuofobia. Basta con la sessomania. Basta con la sessuofobia. Basta con la sessomania. Basta il corpo. Addio, continente nero di miseria e di pena. Addio, città antiche. Ci imbarchiamo per le isole brillanti e radiose, per le verdi citere, per le lesbo nere e dorate. Perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Something's got a hold on.